Ok, io vado. Ciao. Ah, tu vai in giro sempre col microfono. Sì. Noi non ci prenderanno mai la pistoletta. Sì, veramente. Sai che tutte le sere in hotel sono tutti vestiti fuori? Anche noi. Mi rimetto fuori. Bonsoir. Bonne fin de soirée, tout le monde. Ciao.